Iniziamo le nostre riflessioni leggendo un brano della lettera ai Romani, nel quale Paolo mette in evidenza in che cosa consista l'Evangelo e esalta la persona di Cristo quale unica risposta alle numerose necessità dell'uomo. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è e chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto? Quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone novelle. Ma non tutti hanno obbedito all'Evangelo, perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? La fede dunque viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Cristo. Ma io dico, forse non hanno udito, anzi la loro voce è corsa per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Ma io dico, non ha Israele compreso? Mosè dice per primo, io vi muoverò a gelosia per una nazione che non è nazione, vi provocherò a sdegno per una nazione stolta. E Isaia arditamente dice, io sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo ad Israele dice, tutto il giorno ho steso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Romani 10.1-3.21. Per quanto se ne dica, per quante dottrine si stabiliscano, per quanto se ne parli, per quanto i credenti litigino, per quanto indicano convegni o riunioni, per quanto si creda di avere ragione, il riassunto o il compendio del messaggio evangelico o della parola di Dio, così come è scritto nella Bibbia, si trova in una sola proposizione, e cioè, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Romani 10.1-3. È evidente che il verbo invocare non è riferito al solo fatto di pronunciare il nome del Signore di Cristo Gesù, perché molte persone saranno condannate alla perdizione eterna anche se avranno predicato Cristo o fatti miracoli, Matteo 25.4-1-4-6. Ma si riferisce all'atto di implorare Cristo Gesù quale Salvatore e Signore della propria vita. Sarà una invocazione espressa un'unica volta nella vita, mediante la quale si sperimenterà la nuova nascita, Giovanni 3.1-5, e si diventerà figli di Dio una volta e per sempre, Giovanni 1.1-2. Perciò la salvezza dell'uomo dipende da questa invocazione e da questa richiesta di entrare nel regno di Dio a qualsiasi costo, anche a quello di perdere la propria vita, Matteo 16.2-4-2-6. Proprio perché questa è la realtà, l'Apostolo Paolo, vedendone l'urgenza e l'indispensabilità, si pone quattro domande collegate l'una all'altra. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno, se non ci è chi predichi? E come predicheranno, se non sono mandati? La logica di Paolo è disarmante. Per invocare Cristo è innanzitutto indispensabile prendere coscienza del fallimento della propria vita e non trovare nessuna via di uscita, quindi poi credere che Cristo costituisca l'unica risposta ai propri problemi. Ma, per poterlo invocare, è indispensabile averne sentito parlare e per sentirne parlare è indispensabile che qualcuno lo annunci e per annunciarlo è altresì indispensabile che quel qualcuno ne sia stato incaricato. Non vi sono alternative. Questa dunque in fondo è la prospettiva del regno di Cristo. Dio si incarica di far sapere alle persone quello che devono sapere e, per ottemperare al suo proposito, parla ad alcuni, i quali credono in ciò che odono da lui e li manda, perché riferiscano le sue parole o il suo annuncio, affinché, udendo, le persone alle quali i suoi annunciatori riportano il messaggio possano porvi la giusta fede che le può salvare. Purtroppo, come sta scritto profeticamente, ma non tutti hanno ubbidito all'Evangelo, perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Il grande dramma che si sta consumando tra di noi è quello di ascoltare il messaggio di Dio rivolto a tutta l'umanità, ma nel quale purtroppo solo alcuni pongono fede. Proprio perché l'ascolto è fondamentale e indispensabile per poter porre fede. Ciò che si deve credere, Paolo non solo stabilisce, ma riconosce un principio evangelico che non ha eguali La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Cristo. Dunque, la vera fede, quella fede che salva, non è una fede vaga, o quella tradizionalmente appartenente alla religione che si professa. Non è una convinzione personale, ma è una fede prodotta da ciò che si ode, da ciò che si sente con le proprie orecchie, e anche da ciò che ci rende consapevoli di qualcosa a noi sconosciuto prima. Questa consapevolezza proviene da ciò che Cristo dice. Dunque il Cristo Gesù dei cristiani non è un capo religioso morto che ha lasciato, come nel buddismo e nell'islam, un testo sacro da venerare o solo da seguire religiosamente, ma è una persona che parla, che comunica, che trasmette del continuo la sua volontà. Il testo scritto, cioè la Bibbia, serve per avere la formula della conoscenza e della verità, Romani 2.20, ma le parole e le rivelazioni di Cristo sono giornaliere e giungono a noi tramite i messaggeri che Lui manda per tutta la terra. A caratterizzare in modo unico il Dio dei cristiani è il fatto di essere un Dio che parla, e, se non parla, allora non è il vero Dio. Questa verità viene incontro al più grande bisogno dell'uomo, quello di conoscere e di sapere. E come potrebbe avere fede in una divinità così eccelsa, totalmente al di sopra di ogni pensiero umano, se questa non gli si rivelasse? Perciò l'uomo non ha il diritto di elaborare le proprie idee per arrivare a una presunta conoscenza del vero Dio, ma è chiamato umilmente a riconoscere la rivelazione che Dio ha dato di se stesso, una rivelazione data in molti modi e in molte maniere, la quale poi ha raggiunto la propria totalità e completezza in Cristo Gesù, perché Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, Colossesi 1.15, e poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, Colossesi 2.9. Ma ora si pone un problema che del resto si pongono tutti coloro che vengono a conoscenza del Vangelo, e cioè, come possono aver udito le parole di Cristo chi ha vissuto prima di Lui? E come possono udire il Vangelo coloro che sono fuori dalla portata dei messaggeri di Dio? Forse, si pensa, certe persone non saranno rese colpevoli per non aver udito le parole di Cristo. Come potevano credere se non avevano udito? Non lo dice anche il principio evangelico, non lo dice Dio stesso. Si era posto questi interrogativi anche Paolo, ma, con la sapienza di Dio, ne aveva dato anche la giusta risposta. Ma io dico, forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è corsa per tutta la terra, e le loro parole, fino agli estremi confini del mondo. Paolo si pone l'interrogativo che, forse qualcuno avrebbe anche potuto non udire il messaggio di Cristo, ma poi cita subito la Scrittura, cioè un testo dell'Antico Patto, dove si afferma che la voce di Cristo risuona in tutta la terra. Il testo di Paolo fa parte del Salmo 19 e cita così: «I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altra». Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode, ma la loro armonia si diffonde per tutta la terra e il loro messaggio giunge fino all'estremità del mondo. Salmo 19, 1-4. Dunque, i cieli, o il firmamento, fanno parte della voce di Cristo. Essi annunciano di non essere venuti all'esistenza mediante un evento casuale, ma mediante l'opera stessa di Cristo. È vero che non pronunciano parole umane, che non hanno una voce umana, ma la loro armonia e la loro perfezione manifestano fino all'estremità del mondo l'esistenza di un creatore. Così, in ogni epoca della storia dell'umanità, in ogni luogo più o meno civilizzato, ogni uomo è in grado di sentire la voce di Cristo tramite la creazione, nessuno escluso, ed è a questa rivelazione che ogni essere umano è chiamato a rispondere. O rende onore, o gloria al Creatore, oppure con ragionamenti puramente umani spiegherà la creazione senza l'ausilio di elementi metafisici. La voce di Cristo è presente nella creazione non meno della voce nella statua del Mosè di Michelangelo, o di quella di Leonardo da Vinci nella famosa tela della Gioconda. Queste opere d'arte non hanno favella, né parole, ma il loro messaggio giunge fino all'estremità della terra. Nessuno di coloro che hanno vissuto dal XX secolo in poi hanno visto questi autori, ma le loro opere testimoniano della loro esistenza. Se qualcuno non credesse alla loro esistenza sarebbe disprezzato. Così è della creazione. Credere che un creato così perfetto e armonioso sia il risultato di una esplosione di gas roteanti equivale a credere che un computer con la sua immensa memoria e numerosi programmi sia il risultato di migliaia di coincidenze di bit. Giustamente 2000 anni fa, quando la vita si valutava nella sua realtà quotidiana e non veniva influenzata da ragionamenti insensati, si diceva: ora ogni casa è costruita da qualcuno, ma colui che ha fatto tutte le cose è Dio, Ebrei 3.4. Non occorre essere grandemente istruiti per comprendere che qualsiasi cosa ordinata e ben fatta non è il risultato di un evento fortuito, come una sedia, una matita, un libro, una casa, un'automobile, una emittente e una radio. Se un uomo avesse potuto creare l'universo, gli si sarebbe attribuito il dovuto onore. Ma poiché un essere umano non può essere stato, a chi spetta l'onore della presenza del creato? Se non vogliamo riconoscere nessuno, dobbiamo attribuire il tutto a qualcun altro, ma non certamente al nulla. Dal nulla si può formare la materia? La materia può creare l'armonia? Sono domande alle quali un ateo non ha risposta, mentre la creazione annuncia che Cristo è il creatore. Milioni di persone hanno udito questa voce, e a essa hanno risposto, me compreso che, udendola, ho risposto adorando Cristo. In questo modo non sono stato disubbidiente alle mani che Dio tende ogni giorno verso le sue creature, e non ho dato vanto alla materia anziché al Creatore. In definitiva non ho fatto Cristo bugiardo. 20100806 Ellero.